Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Siamo a Visionari, il cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15 e sempre un po' in anticipo data la durata del giornale radio. Ci ascoltate in diretta su queste frequenze, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, colonna centrale nell'home page, alla voce Visionari, e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Le informazioni anche sulla pagina Facebook di Visionari. 13ª edizione dell'Asian Film Festival, lo sguardo dell'Oriente nel cinema, a Carpi, è cominciato l'11, terminerà domenica 16 ottobre. Questo è il direttore Antonio Termenini, che abbiamo ascoltato l'altro ieri, vista l'impossibilità anche di sentirlo oggi e il fatto poi che il festival cominciasse l'11 stesso. Sì, la 13ª edizione di Asian Film Festival si organizza per la prima volta a Carpi, come sapete, dopo 4 anni a Reggio Emilia, dopo 8 anni a Roma, e credo che Carpi sia la città ideale per ospitare un'iniziativa di questo tipo, un festival che appunto oramai è consolidato e conosciuto, credo appunto anche qui nel territorio emiliano. E a livello programmatico il festival continua sulla linea delle edizioni precedenti, nel senso che proponiamo appunto un concorso con i migliori film della produzione del cinema dell'estremo oriente degli ultimi 18 mesi, da Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan e tanti altri paesi, con una retrospettiva dedicata a Stanley Kwan e con ospite d'onore Mabel Cheung, di cui proiettiamo 2 suoi classici, che sono City of Glass e Song Sister, ma soprattutto il suo ultimo film che è Love Three Cities. Una sezione newcomers per i nuovi talenti, quindi per i debutti su registi che noi pensiamo ritroveremo anche in futuro, e con altri film fuori concorso di registi più conosciuti al pubblico italiano e anche di maggiore impatto spettacolare, penso a The Assassin, penso a Afternoon, quindi come dire di registi già molto molto conosciuti dal nostro pubblico, perché è vincitore di premi ai maggiori festival internazionali. Quanti sono i film presentati? I film in tutto sono, credo, spero di non sbagliarmi, sono 31 i lungometraggi, appunto in queste diverse sezioni che prima ho citato, e poi ci sono anche dei cortometraggi, per esempio cortometraggi nuovi di Hong Kong in collaborazione con Hong Kong Art Center, e quindi come dire abbiamo anche questa sezione che solitamente come dire non abbiamo mai dato un grande spazio documentario a cortometraggi, e quest'anno ci saranno, ecco. Senti, rispetto alle prospettive dall'Estremo Oriente, quali sono le aree tematiche più frequentate, più visibili? Ma anche qui, come gli altri anni, le tematiche sono le più differenti, nel senso che se noi pensiamo a una regista come Mabel Cheung, pensiamo a una regista che ha sempre dato particolare importanza al passato, alla storia, alla storia di Hong Kong, alla storia di Taiwan, alla diaspora tra Taiwan e Cina, e quindi come dire una regista che per esempio nel suo ultimo film parla della famiglia di Jackie Chan, ma lo fa appunto in una prospettiva storica ben precisa. Poi dopo possiamo trovare film di genere, quindi film horror, film thriller, commedie, film drammatici, perché innanzitutto in questi paesi si producono molti film, parlo di Corea, parlo di Giappone, Taiwan, Cina, quindi dopodiché naturalmente ci sono alcuni autori a cui noi siamo molto affezionati, da Sion Siono a Zemi Liang, a Royston Tan, ad altri che come dire abbiamo seguito un po' dall'inizio dei loro primi titoli, inizio degli anni 2000, e di cui abbiamo praticamente proiettato tutti i loro film, e quindi per questi registi c'è più uno sguardo autoriale, indipendentemente dalla storia che poi raccontano. Le aree geografiche più vivaci e interessanti? Beh, direi sicuramente Hong Kong e Taiwan, con il cinema giapponese non ha bisogno di essere segnalato, nel senso che non solo per la sua storia ma per il suo presente, è uno dei cinema più importanti al mondo, non soltanto in Oriente. E poi c'è qualche sorpresa, novità, come Dreamland, un film cambogiano che non è il solito racconto della povertà cambogiana oppure della visione così un po' turistica dei templi di Angkor Wat, ma è probabilmente il primissimo tentativo di raccontare la classe media cambogiana giovane che esce dalla tragedia dei Khmer Rossi, quindi è di Pol Pot, che ripeto è veramente un esempio unico di regista che vive negli Stati Uniti ma con radici molto forti nel suo paese, appunto la Cambogia. Antonio, ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Sì, allora il sito del festival, che è www.asianfilmfestivalinfo.info.it, senza il finale, .info, poi ovviamente la pagina Facebook è Asian Film Festival. I film verranno proiettati all'auditorium della Biblioteca Loria e al Cinema Eden e al Circolo Arci Mattatoio. E quindi c'è la possibilità di o acquistare un abbonamento per vedere tutti i film oppure anche di appunto accedere alle singole proiezioni. Poi abbiamo anche una giuria che assegnerà poi i premi come è sempre avvenuto, come tutti gli anni accade. Bene, questo per quanto riguarda l'Asian Film Festival, 13ª edizione a Carpi dall'11 ottobre scorso fino a domenica 16 ottobre. Ne abbiamo parlato con Antonio Termenini un paio di giorni fa, questa era un intervento registrato. Ed eccoci con Lidia Genchi di Nomad Film Distribution sul film Rara, una strana famiglia, in uscita in sala oggi giovedì 13 ottobre. Lidia, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Come, Federico. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' per sommi capi la trama di questo film, Lidia. Sì, dunque la storia di due bimbe, anzi un adolescente e una bambina più piccola, sorelle, che vivono con la madre, che però appunto si è separata dal marito e che si rimette in coppia con una donna, e vivono una vita normale, una quotidianità molto spensierata, soltanto che una, Sara, che poi è la protagonista del film, è adolescente, quindi si affaccia ai problemi, a che fare con i problemi dell'esistenza di questo momento. E le cose poi si diventano ancora un pochino più complicate quando il padre delle due bimbe tenta a tutti i costi di ottenere la custodia delle sue figlie, anche con metodi abbastanza così poco ortodossi, e quindi insomma c'è un po' il dramma di queste bambine, ma tutto trattato con molta delicatezza e molta tenerezza. Quindi è tratto da una storia vera, una battaglia legale che questo padre ha fatto in Cile e che è durata 10 anni, e l'ha vinta in un primo tempo, poi alla fine, dopo 10 anni, insomma, giustizia è stata fatta, ma insomma, un po' tardi. Un aspetto interessante è del rispetto alla, sicuramente c'è la storia delle unioni omosessuali e di come vengono affrontate dalla società, dalla scuola e dai bambini stessi, però secondo me l'elemento centrale è che i figli, come anche nella fine di qualsiasi matrimonio eterosessuale, tra due persone che si separano diventano oggetto del contendere, questo spesso senza sentire il loro punto di vista, come invece nel film in certe occasioni avviene, giusto? Sì. Sì, diciamo che sì, viene intrapresa questa battaglia legale, certo, senza, anche su delle cose poco fondate, perché è vero che c'è un disagio, come tu ben dici, da parte delle bimbe, che però sono appunto bimbe di genitori separati e che quindi non è una questione legata all'omosessualità, certo, della madre, certo, ma piuttosto legata al fatto della separazione, quindi come ce ne sono tanti le famiglie in questo modo. E poi sì, c'è anche un ricorso durante il film a uno psicologo chiamato, anzi a una psicologa chiamata dal padre piuttosto che appunto all'avvocato, ma insomma sempre senza interpellare assolutamente la parte resa, diciamo, i bambini, anzi i quali vorrebbero rimanere con la madre, quindi è proprio una, è stato nella realtà come nel film abbastanza un sopruso, insomma. Mm-hmm. Lidia, come hai incontrato questo film? Dunque, io l'ho visto per la prima volta un anno fa a San Sebastian, che è al festival, dove sì, fanno una sezione di film che si chiama Cine in Construction, cioè sarebbero dei film work in progress che non sono ancora terminati, diciamo, ma che cercano però comunque venditori esseri, distributori e quant'altro. E è una sezione che io frequento tutti gli anni, è molto interessante, l'ho visto prima lì, poi l'ho rivisto finito, diciamo, completo al Festival di Berlino, dove era presentato appunto nella sezione Generation K+, dove poi ha vinto il premio come miglior film, e lì ho concluso il deal con il venditore, ho comprato il film e poi abbiamo cominciato a lavorarci. Mm-hmm. Siamo adesso all'uscita. Senti, di Pepa San Martin che ci dici? Che ti dico, in che senso? No, nel senso del suo come regista rispetto anche ai suoi lavori precedenti. Ma guarda, questo è il suo primo lungometraggio, okay, okay. Ha fatto dei cortometraggi molto interessanti, io penso che sia un talento che ci farà parlare di sé nel prossimo futuro, perché è proprio uno, cioè è una forza della natura, è una persona molto molto intensa, appassionata, che ama il cinema, ama il suo lavoro, ma ama la vita, e questo lo dimostra nel film, tanto è vero che poi pur essendo omosessuale lei non fa di questo film assolutamente un manifesto politico, anzi non vuole assolutamente che ne venga strumentalizzato né definito così, ma è soltanto per lei una storia proprio di amore tra genitori e figli. Mm-hmm. Quindi io penso che lei farà delle cose interessanti, adesso sta lavorando in Cile, lavora anche con la televisione, quindi insomma sta andando avanti nel suo percorso. Senti, come persona è una persona molto carina, vivace, simpatica, si diverte con lei. Senti Lidia, rispetto alla distribuzione, che modalità avete pensato, in quante sale sarà? Sì, la domanda come sempre è scabrosa, comunque la distribuzione, allora noi abbiamo pensato di uscire con pochissime copie per il momento, prima settimana, sondare il terreno, sarà un'uscita diciamo fatta in più tappe, anche perché il periodo è molto pieno di firme, intasato di uscite come tu ben sai, sì. Quindi questa prima settimana usciamo con 7 copie, poi la prossima ce ne saranno altrettante, sperando di mantenere anche quelle della prima settimana, e poi comunque è un film che sarà distribuito molto capillarmente anche nelle rassegne, ce lo stanno già chiedendo da tutte le parti d'Italia, quindi avrà una vita lunga, anche se non avrà un'uscita diciamo in contemporanea grossa, forte, perché non è neanche il tipo di film adatto, insomma, e quindi però insomma ci stiamo lavorando bene, abbiamo buoni riscontri da parecchi esercenti, soprattutto indipendenti ovviamente. Allora, ricordiamolo, Rara, una strana famiglia, da oggi in sala. Lidia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, sì, certo, grazie Federico. Ciao, alla prossima. A presto. Ciao. Lidia Genchi di Nomad Film Distribution sul film Rara, una strana famiglia. Eccoci con Antonio Adinolfi di Videa sulla distribuzione del film Lettere da Berlino, in uscita in sala oggi giovedì 13 ottobre. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, è sempre un piacere per me. Lettere da Berlino, raccontaci brevemente la storia. Allora, la storia è tratta da un romanzo di Hans Pallada, tra l'altro una storia vera. Sì. Anni 40, una coppia di tedeschi ariani, questo mi sembra un elemento interessante, hanno la notizia che il loro figlio al fronte muore, e da questo momento in poi innescano un processo di resistenza dall'interno al nazismo in modo molto singolare, e cioè prima lui, il padre, interpretato nel film da Brian Gleeson, e poi la madre, una meravigliosa Emma Thompson, cominciano a scrivere delle cartoline e le lasciano in posti pubblici di Berlino, così che diciamo, le persone che poi leggeranno queste cartoline, che saranno sempre di più, si rendono conto di quello che è stato veramente il regime. Quindi sono delle cartoline nelle quali loro andavano contro al nazismo e spingevano la coscienza dei tedeschi a ribellarsi, insomma a svegliarsi. E la storia, non ti dico come finisce, insomma, ma il romanzo, forse ecco, in questo senso dà un'idea di come finirà, è Ognuno muore solo. Il film in originale si chiama Alone in Berlin, e noi, per in qualche modo dargli una connotazione un po' più aperta, lo abbiamo appunto chiamato Lettere da Berlino. Se non sbaglio, Antonio, di questa storia il cinema già si era occupato. Guarda, io questo sinceramente non lo so. Non lo sai. Da quello che so io, insomma, è la prima trasposizione fatta, tra le altre cose, da un attore, Vincent Perez, che ha letto il romanzo e lo ha folgorato. Tra l'altro si vede dall'idea precisa di un clima in cui c'era un consenso generalizzato e bastava appunto una voce contraria, anche una semplice cartolina, per rischiare la vita poi alla fine. Beh sì, poi difatti questa cosa poi crea una sorta di vera e propria caccia all'uomo, nel senso che queste cartoline, che inevitabilmente si diffondono sempre di più a macchia di leopardo sul territorio berlinese, a un certo punto portano ai gerarchi del tempo a individuare in uno dei capi quello che dovrà trovare poi la soluzione. E, assolutamente un clima freddo, di morte, insomma, e questo tentativo di questo uomo, di questa coppia, in verità, è proprio quella di scuotere, no, le coscienze, sì, di portarle alla verità. Dicevo consenso in questo senso, Antonio, perché poi praticamente quasi tutte le cartoline vengono consegnate alle autorità da chi le trova. Esattamente, vengono consegnate alle autorità, e diciamo, questo poi costituisce, molto spesso nel film c'è questa mappatura della città dove vengono messi delle bandierine rosse, è singolare come a un certo punto vedi Berlino inondata da bandierine rosse che rappresentano i punti topici in cui sono state trovate le cartoline. E, sì, insomma, davvero molto interessante la storia, molto. E un altro elemento è che al regime in realtà sarebbe bastato anche un capro espiatorio, come poi in realtà succede durante il film, purché la storia venga chiusa. Assolutamente sì, perché a un certo punto diciamo il gerarca incaricato, o il detective, insomma, incaricato di trovare il colpevole, è talmente tanto messo sotto pressione che trova un capro espiatorio, insomma, cioè colpevolizza una persona che in realtà colpevole non era. Senti, come avete incontrato questo film e come poi avete deciso la distribuzione? Noi lo abbiamo incontrato, come tutte le distribuzioni italiane, lo scorso Festival di Berlino, dove era presentato. Io ho letto la sceneggiatura anni fa e mi era piaciuta moltissimo, davvero molto, soprattutto per la singolarità della storia, nel senso, film sul nazismo ne hanno fatti tantissimi. Questa angolatura a me sembrava particolarmente interessante. Il film era stato presentato a Berlino appunto nel 2016, e Dopodiché, come dire, insomma, siamo riusciti ad averlo e ci fa molto piacere perché è proprio in linea con quella che è la linea editoriale di Videa, insomma, della distribuzione Videa, quindi io sono molto contento. Senti, in quante sale da oggi? Da oggi in 85 sale. Che sono numeri quindi, importanti, insomma. Quindi, beh, sì, insomma, il film, sebbene ci abbia un cast molto riconoscibile, è un film di qualità, per cui sono 85 certo. sale ben scelte nel circuito di qualità, siamo contenti, insomma. Bene, per informazioni relative alle sale c'è, se non sbaglio, sia il sito internet e la pagina Facebook di Videa. La pagina Facebook, sì, con tutte le sale pubblicate. Troverete, insomma, indicazioni in tutte le sale d'Italia in cui usciamo. Antonio, un abbraccio, un ringraziamento e alla prossima. Grazie a te, un saluto. A presto. Arrivederci. Ciao. Antonio Adinolfi di Videa sulla distribuzione del film Lettere da Berlino, in uscita in sala oggi, giovedì 13 ottobre. Valerio Carocci, curatore della rassegna Cinema Senza Frontiere a Piazza Vittorio, alla scuola di Donato, quindi qui a Roma, dal 17 al 22 ottobre. Valerio, ben ritrovato a Visionari. Ciao a tutti, grazie Federico. Allora, io leggevo l'altro giorno di questo iter che ti ha portato a questa rassegna, allora raccontaci un po' com'è andata. Sì, sono stato chiamato da Antonio Mondo, dal direttore artistico della Festa di Roma, per sia far parte del comitato di selezione della festa stessa, ma anche per creare un rapporto tra la festa e la città di Roma. Quindi abbiamo da subito insieme immaginato alcuni eventi, ne sono nati in particolar modo da parte mia due. Uno è un drive-in all'Eur che si terrà appunto durante le sere della festa, ed un altro invece è una serie di incontri e di proiezioni nella scuola di Donato, che è la scuola con il più alto tasso di bambini immigrati di seconda generazione, quindi è una scuola multietnica, attivissima nel territorio, perché ci sono tutti i genitori che hanno formato un'associazione e garantiscono che la scuola rimanga aperta anche fuori dall'orario delle lezioni, quindi non è semplicemente un luogo di formazione ma un luogo di ritrovo e di incontro per tutti i ragazzi dell'Esquilino e di ogni età, perché le attività che fanno non sono solo rivolte ai bambini ma anche ai genitori e ai ragazzi. E ho pensato che potesse essere significativo portare a Piazza Vittorio, comunque il quartiere della contraddizione tra le varie realtà multietniche, quella Bangladesh, indiana, cinese, magari sono le più grandi, e Casa Pound Italia, andare a parlare di migranti, quindi un po' forse una mia piccola provocazione, diciamo. Senti Valerio, come sei venuto a conoscenza della realtà di questa scuola e di questa associazione dei genitori molto attiva? Mio padre è un mediatore sociale che ha da anni fatto un lavoro su Piazza Vittorio, il progetto Mediazione Sociale, e quindi ero a conoscenza di questa scuola, anche perché poi studiando al Cavour tanti dei ragazzi che frequentavano scuola venivano proprio dalla di Donato, e allora ho sempre immaginato che questa potesse essere un luogo per delle proiezioni, e dato che bisognava organizzare qualcosa di un pochino più istituzionale, mi sembrava il caso è giusto il momento. Senti, sono coinvolte anche altre realtà come l'Apollo 11, dici un po'. Sì, il progetto è organizzato dalla Festa del Cinema di Roma con l'Associazione Genitori, l'Istituto Scolastico, e c'è il Ministero col progetto Migrarti, che è un progetto che ha prodotto dei cortometraggi che sono andati anche a Venezia e che verranno proiettati prima delle proiezioni dei film, e infine l'Apollo 11, che è un'altra realtà molto simile poi alla nostra, a quella del Cinema America, che nasce dall'occupazione di un cinema che prende uno spazio, come potrebbe essere per noi il Piccolo Forno, come sarà la Sala Troisi, e sviluppa nel territorio e garantisce nel territorio in questi anni un'offerta culturale, quindi essendo lì davanti, ma soprattutto perché sono un punto di riferimento storico anche per una realtà come quella di cui faccio parte, al di là della Festa del Cinema America, ho pensato di coinvolgerli, e Agostino Ferrente è stato entusiasta di collaborare con me all'ideazione e creazione di tutto il progetto. Senti, sulla scelta dei titoli? Scelta dei titoli è abbastanza mia al 90%, e mi sono visto un bel po' di film, alla fine ho scelto sei racconti diversi della stessa tematica, quindi dei migranti, c'è chi parte dall'Anatolia per cercare l'America, c'è chi invece combatte nel proprio territorio per aprire una lavanderia, e quindi c'è sia il tema dei migranti ma lì anche l'omofobia. Poi abbiamo l'integrazione all'interno di una classe o la mia classe, o agli Occhi Azzurri nella periferia di Roma, quindi all'orchestra di Piazza Vittorio, in cui tanti personalità diverse di varie etnie si mettono insieme per creare un'orchestra. Quindi ho cercato di rappresentare la tematica da sei punti di vista differenti. I titoli da che anno pressappoco partono? Oddio, domani già, comunque film davanti. Anche di qualche anno fa, mi riferisco di Visconti, esatto. Elia Kazan, My Beautiful Londres, fino appunto agli Occhi Azzurri alla mia classe, che sono recentissimi. È coinvolto infatti anche Claudio Giovannesi in questo progetto. Ci sono tre strade con le presentazioni. La prima è con Agostino Ferrante per l'orchestra di Piazza Vittorio il 17, poi abbiamo il 20 Claudio Giovannesi con Agli Occhi Azzurri, mentre il 22 Gianluca Arcopinto presenterà la mia classe. Benissimo. A questo punto i riferimenti web per il programma. L'evento su Facebook si chiama Cinema Senza Frontiere, se no potete andare sul sito Roma Cinema Festa, della Festa del Cinema di Roma, o sulla pagina Facebook Festa del Cinema di Roma. Valerio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao. Valerio Carocci, curatore della rassegna Cinema Senza Frontiere a Piazza Vittorio, la scuola di Donato, qui a Roma, dal 17 al 22 ottobre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ci ascoltate in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, visionari, ma mi sono accorto che quest'oggi ieri non l'ho postato, quindi lo vedrete in ritardo. Sulla pagina Facebook lì c'è, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Francesco Melzi di Good Films sulla distribuzione del film Neruda, in uscita in sala oggi giovedì 13 ottobre, film al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Allora, un film importante, raccontiamo brevemente la storia a chi ci ascolta, Francesco. Ma è un pezzo, è un momento della vita di Pablo Neruda, nel 47 mi sembra. Il regista ha voluto raccontarci Neruda proprio attraverso alcuni mesi della sua vita, non ha voluto fare la classica biografia che si allunga nel tempo, eccetera. Ha voluto prendere un momento della vita di Neruda e ha interpretato questo momento concentrandosi sulla fuga di Neruda, perché c'è stato un momento nella sua vita in cui era ricercato dal governo cileno, dal governo del suo paese, e viene e si immagina questa fuga e un inseguimento da parte di un ispettore di polizia incaricato di trovarlo e di arrestarlo, questo Oscar Pelucenot, interpretato da un grandissimo Gael García Bernal. Senti, ne viene fuori un ritratto a mo' di lirica, secondo me, molto, molto poetico, un Neruda gaudente e viaggiatore, e insomma molto curioso del mondo e della vita, e di contro un sistema di potere piccolino, umanamente piccolino, insomma, questo è. Beh, certo, come tutti i sistemi non autoritari, diciamo, non è ancora quel momento del momento della storia del Cile, precede di un po' di anni i momenti della dittatura degli anni 70 di Pinochet, sì. E l'uccisione di Allende, eccetera. Però quel tipo di potere si stava già affermando, e Neruda, tra l'altro a capo del partito comunista cileno, era il più grande oppositore di questo. Senti lui, ecco la cosa interessante, proprio da descrive questo Neruda proprio come una persona colta, gaudente, appassionato di cibo, di donne, di poesia ovviamente, e interpretato tra l'altro da questo attore cileno già presente nei film precedenti di Paolo Larrain, che si chiama Luis Gnecco, un attore fenomenale, ecco. Allora, Pablo Larrain, noi era, insomma, in Italia era arrivato, se non sbaglio, con Tony Manero, si era affacciato a un certo successo con Noi giorni dell'arcobaleno, e poi è stato anche recentemente in sala con il Club. Sì, Pablo Larrain credo che sia ufficiale che sia entrato nel Guinness dei primati con tre film usciti nello stesso anno da parte dello stesso regista negli Stati Uniti, con El Club, Neruda, e poi esce adesso a breve Jackie, già presentato al Festival di Venezia. Larrain è una delle grandi voci nuove della cinematografia mondiale, ha una visione, e tu devo dire che tutte le volte stupisce con il suo cinema in maniera diversa, ma sempre. Il Club è un film un po' più piccolo, è stato, Paolo mi ha raccontato che l'ha fatto praticamente, Neruda è stato posticipato di 6 mesi perché mancavano dei fondi, e in quei 6 mesi ha messo insieme The Club, che poi ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino l'anno scorso, quindi ha una capacità di mettersi al lavoro e di regalarci dei film stupendi che è incredibile. Nonostante poi in Madrepatria sia una figura un po' controversa, e anche lo stesso film Neruda ha avuto detrattori e ammiratori. Beh, è un film che prende comunque di petto una figura monumentale della storia cilena, che è Neruda, e anche un momento molto importante della storia di quel paese. Certo. E quindi è ovvio che abbia diviso. Poi però, detto questo, il film è stato nominato dal Cile come candidato per l'Oscar 2017, tra l'altro è il grandissimo favorito per l'Oscar come miglior film straniero. Francesco, le modalità di distribuzione che avete scelto per Neruda? No, usciremo in 70 copie in tutta Italia, nei migliori cinema cittadini, specialmente cittadini. È un film d'autore che però ha la capacità di parlare a un pubblico più largo, anche perché Neruda è un personaggio amatissimo non solo nel suo paese ma anche in Italia, e quindi penso che sarà un film che piacerà molto, un film umano che stupisce in ogni inquadratura, devo dire. A proposito del piacere, Francesco, quali sono stati gli elementi che più ti hanno convinto del film? Ma noi abbiamo comprato il film a livello di sceneggiatura un anno e mezzo fa, e già dalla sceneggiatura ci aveva molto convinto, proprio perché prendeva la biografia e la reinterpretava in maniera molto molto originale. In più credevamo nel regista, pensiamo che sia il momento, sia proprio con questo film che esploderà, che verrà conosciuto anche da un pubblico più largo. E quindi, e ripeto, come ho detto prima, noi pensiamo che sia una delle voci più originali, interessanti e importanti del nuovo cinema. Tra qualche mese uscirà anche Jackie, che è un altro film suo, di Neruda, molto interessante, anche questa è una biografia su un personaggio storico come Jackie Kennedy. Benissimo, allora ricordiamo in Neruda da oggi in sala giovedì 13 ottobre. Francesco, un abbraccio, a risentirci presto. Sì, ecco, l'ultima cosa, voglio solo dire che è veramente uno dei film, è considerato uno dei film più importanti dell'anno. Io penso che sia realmente così, penso che sia uno dei film da vedere dell'anno, di quest'anno. Sì, sì. Ci lasci anche i riferimenti web per sapere della programmazione? Beh, c'è Good Films, che è www.goodfilms.it, è il nostro sito in cui ci sono sempre informazioni su tutti i nostri film, su questo e su altri che verranno nel corso della stagione. Sono sicuro che poi ci risentiremo, certo, per gli altri, come al solito, siete molto gentili. Un abbraccio, alla prossima, Francesco. Grazie mille, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Francesco Melzi di Good Films sulla distribuzione del film Neruda. Eccoci con Fabio Di Pinto, regista del documentario I volti della Via Francigena, in uscita in sala oggi giovedì 13 ottobre. Fabio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, ciao a tutti. Ho avuto modo di vedere questo documentario quest'estate al Clorofilla Film Festival. Raccontiamo un po' di cosa si tratta, Fabio. Dunque, di cosa si tratta? In poche parole, nasce in seguito a una mia esperienza di viaggio lungo la Via Francigena. La scorsa estate ho camminato dal Colle del Gran San Bernardo a Roma e ho portato avanti la mia esperienza da viandante, da camminatore. Parallelamente ho realizzato questo documentario. È un documentario che racconta i luoghi e i volti emblematici di questo itinerario. Quello che ho cercato di fare è di dare voce a tutte quelle realtà virtuose, silenziose, affascinanti che popolano questo itinerario millenario. Senti, come, allora, era la tua prima esperienza da camminatore e volevo chiederti questo, e poi se l'idea è di filmarla è nata prima o magari a ridosso. Diciamo che c'è stato un connubio di aspetti, nel senso, questa è la mia seconda esperienza da camminatore. Ho fatto il Cammino di Santiago nel 2012 con la mia compagna e questo aspetto si è presentato per fare il film, nel senso che io mi sono imbattuto in un gruppo di volontari che aggiornava la segnaletica dell'itinerario e mi hanno proposto: aggregati a noi e realizza questo documentario. Quindi io ho unito due grandi passioni, il camminare e il cinema documentario di cui mi occupo, e voilà, è nato questo, ecco. Tra l'altro un'esperienza che sta finendo spesso al cinema, nel senso, su Santiago è stato fatto già un film e un documentario che sono usciti in sala, ora La Via Francigena. Uno degli aspetti più interessanti, al di là dell'approccio laico con cui magari si affronta l'argomento, è l'uomo alle prese, e la donna alle prese con se stessi, quindi è anche un percorso interiore piuttosto forte e significativo, che dura poi anche diverso tempo. Sì, diciamo che ho cercato di dar voce un po' a quell'umanità silenziosa, per certi versi, no? A tutte quelle figure che con il cammino riescono a ritengo che il cammino possa essere un'opportunità di cambiamento. Quindi questi aspetti umani, individuali, sicuramente sono estremamente significativi e interessanti, ecco, per quel che riguarda il camminare. Diciamo che il camminare è sia un'opportunità, ma applicato a questo film vuole anche essere in qualche modo uno strumento di riflessione, no? Su quello che è la realtà quotidiana, il nostro modo di approcciarci alla vita, alla sostenibilità, all'ambiente, a diversi temi che sono estremamente attuali per certi versi. Senti, Fabio, per chi ci ascolta, dacci anche un po' una panoramica della varia umanità che hai incontrato e con cui hai interagito. Dunque, ho incontrato durante il film, ho incontrato 40 persone, le ho intervistate, 40 di queste sono poi state inserite all'interno del documentario. E queste persone hanno sono tutte figure diverse, sono dal traghettatore del fiume, la via Francigena è uno degli unici, se non uno dei pochi, se non l'unico itinerario che ha un tracciato su un motoscafo, bisogna attraversare il fiume per andare dall'altra sponda del Po. Ho intervistato degli ospitalieri, ho intervistato dei pellegrini, dei volontari che collaborano nella valorizzazione della via Francigena, ho intervistato figure di chiesa, un abate dell'abbazia millenaria di San Maurice in Svizzera, un don di Aulla, ho cercato un po' tutte le sfumature che un cammino porta con sé, quindi aspetti religiosi, aspetti laici, aspetti che vanno tutti sotto il grande cappello dell'essere umano, ecco. Quella, la mia volontà era quella di fare una ricerca sull'uomo e su tutte le sfumature che porta con sé. E rispetto a questo vario mosaico, quali sono gli elementi più ricorrenti? C'è un tratto che li accomuna? Ciò che ti accomuna è che le persone fanno fatica, secondo me, quelle che ho intervistato fanno fatica a trasmettere a parole che cos'è un cammino, che cosa significa camminare. È un'esperienza questa che uno riesce, secondo me, a percepire e solamente se la sperimenta, la prova e la vive per un certo periodo di tempo. Raccontare a parole questo tipo di contatto con la natura, il silenzio, il procedere a un ritmo lento, il riassaporare la lentezza della vita, il dover mangiare, dormire, camminare nella tua routine, è una cosa complessa da capire, che una volta che uno lo sperimenta riesce veramente poi a, se riesce a riportare nella vita quotidiana questi elementi, si vive meglio, secondo me, si riesce ad avere ritmi più umani, più belli, ecco. Tra l'altro questo è un fenomeno sempre più diffuso, se pensiamo, insomma, sicuramente è stato Santiago che ha fatto un po' scuola, però poi in Italia sono stati riacquisiti, diciamo, la via Francigena, il cammino di San Benedetto, e sempre più persone ci si stanno cimentando. Sì, diciamo che in questi ultimi anni la via Francigena ha, soprattutto negli ultimi 2 anni, spero anche di aver contribuito io con il film in qualche modo, sta ricevendo una visibilità e attenzioni dal punto di vista istituzionale e non. In Italia stiamo percependo che è una fonte di turismo, è una fonte di microeconomia, nel senso che lungo questa strada comunque si stanno crescendo sempre più attività che permettono al pellegrino di vivere l'esperienza, quindi penso agli ostelli, penso a punti ristoro e così via. E quindi rispetto a Santiago chiaramente è un itinerario che c'è ancora tanto lavoro da fare e credo che verrà fatto. Santiago ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'inizio degli anni 2000, attorno al 2000 per il giubileo, e hanno aperto degli ostelli comunali gratuiti, e così facendo hanno fatto un vero e proprio boom, perché le persone avevano la possibilità di muoversi spendendo nulla o poco in strutture ricettive che gli permettevano di spostarsi da un punto a un altro punto a piedi. In Italia chiaramente questo non è ancora accaduto e nel momento in cui ci sarà un forte investimento dall'alto, secondo me riusciremo a dare veramente una spinta considerevole, però c'è da dar merito a tutti i privati che ci sono sull'itinerario, che stanno riuscendo a creare una rete, secondo me, molto, molto bella, molto forte, e stanno veramente dal basso valorizzando questa strada, ecco. Uno forse l'elemento più determinante nell'attrattiva di questa esperienza è il patrimonio rappresentato proprio dall'ambiente. Allora, io sono arrivato sul finire del viaggio che ero quasi stufo di vedere cose così belle, nel senso che poi ti trovavi di fronte a delle realtà che dici un'altra così, e era surreale come cosa, però veramente rimani a bocca aperta davanti alle realtà che incontri, ai paesaggi. Io ho scoperto in Italia, io quando ho viaggiato in Italia ho viaggiato prevalentemente nelle grandi città, no? Uno va a visitare le città d'arte. Così mi sono potuto vedere una realtà completamente parallela, un'Italia agricola, di piccoli borghi, di micro realtà in cui è tutto più piccolo, è tutto più intimo. I luoghi e i punti di attrazione sono veramente infiniti, mi viene uno su tutti, mi viene in mente, ma è uno proprio per fare solamente un esempio, mi viene in mente la chiesa della Madonna del Parto a Sutri, che è una chiesa che è stata scavata interamente nella pietra, nel tufo, e tu entri da una porticina minuscola, vai dentro, ci sono queste navate, è una cosa incredibile se pensi che l'uomo è riuscito a fare una cosa di questo tipo. Rimani a bocca aperta. Sì. Ma poi ci sono dei paesaggi in Toscana, in Emilia, nel Lazio, cioè lungo tutto il tratto, il paesaggio muta completamente, tu passi dalle montagne della Val d'Aosta, alle pianure del Piemonte, della Lombardia, di parte dell'Emilia, e poi entri in una dimensione più collinare, in tutta lungo l'Emilia, lungo la Toscana, un continuo saliscendi. Io l'ho fatta d'estate, quindi i paesaggi erano arsi dal sole, erano paesaggi molto forti, suggestivi, molto molto belli. E poi il Lazio è stata una piacevole sorpresa anche quello, nel senso che poi ci sono tutta una serie di realtà, poi, senza parlare dell'arrivo a Roma, ecco. Sì. Arrivare in una città come Roma sicuramente ha il suo fascino. Mm-hmm. Senti Fabio, che modalità distributive avete scelto? Dunque, il film è portato avanti adesso la distribuzione da Cineama, una casa di distribuzione di Roma. È una casa di distribuzione molto attenta e virtuosa, nel senso che cerca anche di affrontare tematiche sociali e umane, come può essere quella che tratta il film. La distribuzione sta procedendo sia attraverso un canale più ufficiale, nel senso la casa di distribuzione contatta le sale accolgono il film in formula di evento, quindi conviene. Se una persona vuole vedere il film conviene rimanere aggiornata sui profili social, i volti della Via Francigena, o sul sito viafrancigenadocumentary.com per sapere se ci sono proiezioni nelle proprie città, nelle proprie zone. La seconda via, che è quella che mi sta piacendo molto, sono le proiezioni dal basso che riceviamo da associazioni, da piccoli enti che sono interessati al film, ma anche semplicemente dal uno spettatore qualsiasi che al desiderio si attiva, contatta i cinema della propria città, contatta i comuni e trova un modo per formare un pubblico e fissare una data di una proiezione. Questa cosa è già accaduta in diverse occasioni e quindi stiamo riscontrando un forte senso di condivisione, di desiderio di vedere questo film anche dove è più difficile portarlo, ecco, questa cosa mi sta piacendo davvero tanto. Bene Fabio, i riferimenti ce li hai lasciati, a questo punto un saluto, a risentirci presto. Grazie mille di avermi permesso di raccontare questa mia piccola realtà, un saluto e arrivederci a tutti. Grazie. Alla prossima, ciao Fabio. Ciao, ciao. Fabio Di Pinto, regista del documentario I volti della Via Francigena, in uscita in sala oggi giovedì 13 ottobre. Cristiano Bortone, regista del film Caffè, in uscita in sala oggi giovedì 13 ottobre. Cristiano, ben ritrovato, era un po' di tempo che non ci si sentiva. Federico, parecchio tempo. Parecchio sì. Tempo. Però io vi seguo sempre ovviamente, perché il tuo programma è uno dei più sorprendenti e ricchi di tutto il panorama cinematografico italiano. Ma devo che dire. Bello. C'hai sempre tutti, sei sempre in super prima linea. Allora Cristiano, visto che è passato un po' di tempo, intanto che cosa è successo nel frattempo? Tante cose, ti ricordi? Eravamo ragazzi. Eravamo ragazzi. Non mi ricordo l'ultima volta che ci siamo sentiti. Vabbè, comunque insomma io faccio sempre, cerco di tenermi sempre attivo, facendo cose che mi piacciono, diverse spesso l'una dall'altra. da Erba Proibita, Rosso come il cielo, film sulla marijuana, Rosso come il cielo, da Saimir a commedie più popolari, insomma, vabbè, ci teniamo impegnati. E siamo arrivati a questo caffè. Allora ti dico, io non sono riuscito a vederlo. Aia. Però mi incuriosiva molto, e allora parlacene un po', Cristiano. Diciamo che è un film un po' singolare, credo, sì, magari sì. Mi sbaglio, ma per l'Italia credo sia un film un po' singolare. D'altronde mi pare di capire che finalmente, dopo tanti anni, no, il nostro cinema, noi filmmaker, anche, forse anche più giovani filmmaker, sono interessati a vedere delle storie italiane, ovviamente, ma anche con un respiro un po' diverso, sì, un po' più internazionali, che parlano di tematiche un pochino più ampie, no, che raccontano un po' un mondo più ampio. E quindi io ho dato il mio piccolo contributo. Da tanto tempo volevo fare un film che parlasse un po' di questo momento storico che stiamo vivendo, che mi sembra pieno di nuovo, dopo, no, di incertezze, di questo nuovo millennio iniziato con delle grandi tematiche che rischiano di, se non vengono risolte, che nei prossimi anni il nostro mondo non sarà più quello che abbiamo. Quindi, no, sappiamo adesso il flusso incredibile di questi migranti, quindi tutti i problemi che noi conosciamo molto bene di integrazione tra culture, cioè, d'altronde ce l'avevano detto, insomma, no? Che ci sono milioni di persone che cercano un regime di vita migliore, che noi purtroppo abbiamo un po', noi in senso, non noi, noi come società, sì, occidentale, sì, ovviamente. Sì. E di contro l'emergenza ecologica, il declino dell'Occidente, insomma, un clima di nuovo tutto in un mondo sempre più piccolo, dove siamo sempre più collegati. Sì, sì. Quindi volevo raccontare, sento molto da questa tematica, la volevo raccontare, e ho trovato attraverso questo elemento del caffè, tu sai, tu mi insegni che spesso in tanti film il gusto, le specialità della vita, no? Le specialità del gusto, delle eccellenze, delle cose speciali, diventano veicoli per raccontare emozioni più ampie, temi molto più universali. Quindi sì, in questo caso io ho un amico appassionato di caffè, insomma, che sa tutte le sommelier del caffè, conosce tutti i segreti di questa pianta, di questa tazzina, insomma, no? Che poi ha tante sfumature. Mi ha affascinato con questa cosa, ho pensato, ecco, vedi, potrebbe essere questo un elemento, questo liquido così semplice che beviamo ogni mattina, che ci dà questa bottarella per iniziare la vita, ma che poi ha tante altre connotazioni storiche, sociali, interessanti, né? Potrebbe essere il trade union, che lega questi destini che avvengono in luoghi lontani, ma così vicini, per parafrasare, sì, uno in Italia, uno nel nord Europa, preso da questi scontri razziali terribili, in Belgio, e uno nella lontana Cina, attenzione. E quindi, diciamo, questi tre destini si collegano grazie all'elemento del caffè. Questo un po' in due parole. Sì, sì. Senti, in fase di scrittura, dove ti sei rivolto? Dove sei andato a cercare? Cosa ti ha ispirato? Intanto, essendo questo, la curiosità è che il primo film di coproduzione ufficiale tra, sì, Italia e Cina. Sì. Questo è abbastanza singolare, poi magari ci spenderemo due parole se vuoi, ma il film è stato scritto a 8 mani, a 12 mani, diciamo, anche con sceneggiatori cinesi e uno sceneggiatore inglese, sì, proprio perché ogni lato di queste storie volevo che fosse più realista possibile e rappresentasse in maniera più credibile possibile la realtà locale. Ovviamente io non sono nativo cinese, parlo un po' di cinese, non so se te lo ricorderai, questa curiosità stravagante, però non sono cinese, quindi insieme a dei colleghi cinesi abbiamo scritto le storie in modo che rispecchiassero molto la cultura locale, quindi è stato un lavoro di squadra, diciamo. Idem, insomma, nei vari luoghi in cui sei andato a girare. Sì, io ho insistito perché in ogni luogo dove abbiamo girato, quindi in Belgio, in Cina, utilizzassimo la troupe locale, in, certo, tutti i reparti, anche costumi, scenografia, proprio per dare il maggiore realismo e verosimiglianza possibile. Ovviamente la fotografia è unica, che è fantastico, Vladan Radovic, visto già che ha iniziato con me con Rosso come il cielo, ma ha fatto Anime Nere, l'abbiamo visto in Visi, quindi la fotografia chiaramente doveva essere unitaria, ma tutto il resto è assolutamente locale. E questo si è tradotto anche in un'esperienza produttiva, vabbè, lo lascio immaginare, insomma, sì, straordinaria, cioè lavorare con truppe completamente in cinese, attori in cinesi, fantastico. Quando mi ricapita. Senti, mi hai detto anche che è una creatura a più teste anche per quanto riguarda la produzione. Com'è stato il percorso produttivo? Articolato, immagino. Si dice la lunga marcia, no? Una lunga marcia. Sicuramente, come tutte le cose nuove, è stata una grande avventura, una grande sfida, e questo lo dico in tutti i sensi, cioè sicuramente come difficoltà, perché è stato veramente molto complesso, pensa dal rapporto con la censura cinese, no? Perché siamo dovuti siamo stati approvati dalla censura cinese, quindi comunque c'era un lungo periodo di discussione su alcuni temi sensibili politicamente, eccetera, e poi nel frattempo ci sono stati gli attentati in Belgio, no? E quindi a un certo punto la polizia in Belgio non ci voleva far girare, perché aveva paura che noi abbiamo ricostruito un'intera rivolta di piazza, e avevano paura che le persone di questo quartiere musulmano pensassero che non fosse un film ma fosse vero, e scendessero in strada e cominciassero anche loro a unirsi ai rivoltosi, no? Che facessimo scoppiare noi una rivoluzione invece. Ci sono stati momenti complicati, però devo dire che di contro sono anche sfide, quando uno ha una sfida è anche straordinario riuscire poi a combatterla, insomma, no? Cioè sì, ti dà una soddisfazione. Sì. Cioè, io ti ripeto, l'idea di essere riuscito a fare un film che è di nazionalità cinese, anche passando la censura della Repubblica Popolare, girando ai confini con Laos, coinvolgendo appunto nella foresta, coinvolgendo personaggi, anche attori cinesi molto famosi, abbiamo questa bellissima e bravissima attrice Zhuo Tan, che è stata a Cannes in tanti film molto belli, cioè, per me è una soddisfazione poi veramente incredibile, è un punto, una pietra miliare, e spero, ti dico la verità, che apra molto la strada a tanti altri colleghi filmmaker che possano trovare in questa nuova frontiera del mercato cinese, che ormai è in esplosione, delle opportunità per i loro film. Questo è molto importante, cioè, io sono il primo, ma spero che altri seguano. Senti, in uscita oggi in quante sale, Cristiano? Oggi purtroppo siamo meno delle sale che desideravamo. A Roma siamo in esclusiva al Quattro Fontane. Sì. Purtroppo escono, come tu sai, perché anche la tua scaletta è nutrita, escono come al solito 13 film oggi. Quindi è veramente ormai una battaglia all'ultimo sangue, insomma. Però ci tengo, perché l'uscita è di qualità. Il distributore, che Officine Umbo, ha fatto un gran lavoro, poi mi sembra che le prime reazioni siano molto positive, e questo è una grande soddisfazione, insomma. A questo punto ci dai anche i riferimenti web per saperne di più sul film e sulle uscite, sulle sale che saranno in cui sarà disponibile? Allora, sul Facebook, ovviamente, sul fantastico Facebook abbiamo possiamo cercare caffè, il film. C'è il sito dell'Officine Ubu e anche la pagina Facebook dell'Officine Ubu, dove c'è tutta la lista delle sale, e nonché trailer vari, eccetera eccetera. Benissimo, allora Cristiano, un abbraccio, speriamo di non lasciar passare troppo tempo come l'ultima volta. Assolutamente, vedrai che tra un paio di mesi usciamo con il prossimo film. Un abbraccio, a presto. Grazie a tutti, a tutti, ciao. Gli ascoltatori, ciao Federico. Ciao. Cristiano Bortone, regista del film Caffè, in uscita in sala oggi giovedì 13 ottobre. E come ogni anno, l'appuntamento con Stefania Piccinelli, direttrice della 10ª edizione di Terra di Tutti Film Festival a Bologna, da ieri fino al 16 di ottobre. Stefania, ben ritrovata. Grazie a te e ben ritrovati a voi. Effettivamente sono 10 anni, quasi invecchia, visto che ero già qua dalla prima edizione. Stefania, per chi ci ascolta e non conoscesse il festival, quali sono le sue caratteristiche? Allora, Terra di Tutti i Film Festival è un festival un po' atipico, che in 10 anni ha mantenuto totalmente il suo spirito e la sua atipicità, perché è un festival organizzato da due ONG, organizzazioni non governative, che di mestiere fanno normalmente cooperazione allo sviluppo, quindi non organizzano, non fanno cinema, non organizzano festival né niente di tutto ciò. Però 10 anni fa appunto ci è venuta questa idea di organizzare questo festival proprio per portare le testimonianze, poi perché c'è una produzione di documentari veramente enorme, sia di documentaristi e registi italiani ma anche insomma stranieri, su tutte, di denuncia, di racconti, insomma di storie da tutto il mondo, storie di sviluppo, storie di lotte. Quindi questo è il festival, che ha una programmazione che infatti è tematica, quindi sono sessioni tematiche, corti e mediometraggi fino al massimo di 60 minuti e 60, quest'anno ne abbiamo selezionati, 615 ce n'erano arrivati, quindi insomma siamo molto contenti di come sta andando. Quanti paesi coinvolti? Oddio, tanti adesso, mi hai fatto una domanda, questi non li ho contati, ho contato i film ma non i paesi, però veramente dai quattro angoli del paese, del pianeta, da appunto i Caraibi, Haiti, la Bolivia con un film sui Cipaya, questa popolazione nomade tra Bolivia, Perù, tantissimo Medio Oriente, ma anche tanta casa nostra. E questa è un pochino la differenza che possiamo dire tra Terra di Tutti Film Festival adesso e 10 anni fa. Che c'è molta più Italia, c'è molta più lotta per i diritti anche qua, chiaramente tante storie di migrazione, rifugiati, ma non solo, ecco. Infatti stasera avremo proprio qua alle 22:30 questa sessione che si chiama Questione di diritti, in cui appunto il film ad esempio Secondo Mondo di Alessandro e Mattia Levrati, due autori italiani di Milano, raccontano storie di diritti qua, storie di lavoro per italiani immigrati, insomma, perché quello che stiamo assistendo è un po' un logoramento dei diritti un po' dappertutto nel mondo, ecco, non solo nel cosiddetto sud. E uguale Corridoio 5 invece di Manuel Coser parlerà appunto invece della questione NOTAV, ma approcciata proprio come una comunità che rivendica una sua ruolo decisionale sul proprio territorio, che alla fine non sono tanto diverse dalle storie ad esempio che raccontiamo di popoli appunto dei Cipaya della Bolivia piuttosto che di altre popolazioni del Messico, quindi autodeterminare un attimo cosa succede sulle proprie terre. Senti, Stefania, mi dicevi della sezione sui diritti, ci sono altre aree tematiche? Ci sono molte altre aree tematiche, faremo sabato un focus appunto sul Mediterraneo, sul Medio Oriente, e abbiamo quest'anno in giuria presidente appunto della giuria che darà il premio in onore, insomma, in memoria a Giovanni Lo Porto, che è Saleh Bakri, che è appunto attore palestinese che arriverà qui a Bologna domani e presenterà appunto il focus Medio Oriente ad esempio il sabato sera alle 19:30 con alcuni film tra cui anche Echo of the Shadow di Dima Al-Jundi, che è una regista libanese che già vinse nel 2010 con un altro film Terra di Tutti i Film Festival, che quest'anno presenta questa storia di tre rifugiati siriani in Libano. Le altre cose, uno è Orwa, l'abbiamo invitato al festival e praticamente in aeroporto a Beirut gli hanno dato il foglio di via per cui non potrà più tornare indietro, quindi insomma abbiamo anche diciamo che la realtà supera la fiction e anche il documentario quest'anno. Senti, Stefania, per saperne di più tutti i riferimenti web? Allora, il programma completo di Terra di Tutti i Film Festival è sul sito, che è molto semplice, www.terraditutifilmfestival.org. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. A presto, ciao Stefania. A presto, ciao. Stefania Piccinelli, direttrice della 10ª edizione del Terra di Tutti Film Festival a Bologna da ieri 12 ottobre fino a domenica 16. Ed è tutto per visionari di questa settimana. Tutte le informazioni le trovate sulla scaletta e sulla trasmissione sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, su colonna centrale trasmissioni visionari, anche se ce la dovrò caricare a breve perché quest'oggi non l'ho messa prima di andare in onda ieri, in genere la carico il giorno prima, così non è stato, però questa volta la caricherò anche con il link della registrazione, quindi sarà completa. C'è poi la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming, sempre dal sito internet della radio, sull'home page c'è Ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento.